È un accordo al quale noi diamo un'importanza fondamentale. Questo accordo è fatto di alcuni punti importanti che vi dico brevemente. Con questo nuovo accordo noi proroghiamo di ulteriori 6 mesi la possibilità delle piccole e medie imprese di accedere a questo tipo di moratoria. Il secondo elemento che è stato aggiunto in questo accordo dice questo, dice che per i mutui che sono già stati oggetto di moratoria, per imprese sane, quindi imprese che non hanno incagli o procedure, diciamo, di concordato, quindi tutto questo sono diciamo, strumenti non a favore di imprese decotte, ma sono come dire, strumenti a favore di imprese con qualche difficoltà ma capaci, quindi su questo c'è la possibilità di avere un'ulteriore proroga di 2 anni o di 3 anni, a seconda che siano mutui, diciamo, con garanzia, e questo è molto importante. Il terzo elemento che c'è una copertura del rischio di tasso molto semplice e il tasso rimane lo stesso se c'è una copertura del fondo di garanzia. Ultimo aspetto molto importante per noi, c'è anche un accordo che dice che se un'impresa aumenta il proprio capitale, le banche seguono a loro volta con finanziamenti che sono un multiplo dell'aumento di capitale. Quindi, e chiudo, uno strumento molto importante che aiuterà l'impresa in questo momento di uscita dalla crisi, ma ancora complicato, e noi ci aspettiamo un'altra ulteriore massiccia adesione a questo aspetto, a questo strumento. Musseri, Giuseppe Musseri, presidente dell'ABI, soddisfatto, quindi le banche italiane, soddisfatto per la moratoria, e ricorda essere unico strumento di questo tipo a livello europeo. La prima moratoria è servita a guadagnare tempo a chi, colpito da questa caduta verticale, aveva tutti i numeri per poter continuare ad andare avanti. Oggi, all'esito della scadenza più importante, il ragionamento qual è stato? Uno, capire se ci sono altri che hanno bisogno della moratoria e quindi riaprirla per 6 mesi a chi non ne ha goduto. La seconda, chi ne ha goduto ma può avere ancora delle tensioni di liquidità, allungargli per un massimo di 3 anni il mutuo, quindi l'impiego che ha. Dentro ci abbiamo messo l'eventuale garanzia del fondo di garanzia, una raccolta attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, la possibilità di coprire queste imprese dal rialzo dei tassi e quindi uno strumento di copertura lineare strettamente correlata all'operazione di finanziamento non speculativo e non dannoso. E principalmente abbiamo confermato e rafforzato l'idea che in questo Paese, se le parti sociali si siedono intorno a un tavolo, trovano un ambiente confortevole, attento e collaborativo da parte del Ministero dell'Economia, in questo caso sono in grado di affrontare situazioni di emergenza gravi con risultati significativi, senza avere epigoni in Europa, perché questo lavoro che abbiamo fatto noi in nessun altro paese europeo è stato fatto.